Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tu, ancora tu, mi chiedi di più, mi fai così male alle emozioni, sei tu, trucco nascosto, la fine del mondo in questo letto stretto, è mai perfetto, perfetto. Perfetto, 10:33 e siamo arrivate. Parlo al plurale perché sono abituate, ma dovrei parlare al singolare perché Deborah, come ho anticipato, non ci sarà in questi giorni, tornerà alla fine di agosto, ma non mancheranno naturalmente i temi e gli approfondimenti di denari e quelli di cuore che affronteremo con il piglio di cuore denari. Parleremo infatti di errori e dimenticanze in tema di fisco, possono capitare, capiremo come si può rimediare. Poi vi aggiornerò sulla situazione in Grecia, nella zona di Kos, colpita purtroppo dal terremoto, per capire quali sono i consigli più utili per i turisti. E poi parleremo di perfezionismo. Per questo ho iniziato con questo brano di Giorgia, dare il meglio di sé in tutti i campi. Beh, va bene, perché no? Tutti noi tendiamo a fare le cose per bene, ma attenzione a non rimanere invischiati in questo atteggiamento che ci può costare caro. Allora i nostri esperti ci aiuteranno a capire se siamo dei perfezionisti e quanto ci costa. Intanto, numero verde a vostra disposizione 800 24 00 24, io vi aspetto e aspetto anche i vostri WhatsApp al 349 238 6666. Può farissimo, è tardi. Questa sì che buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi signore? Ma che? Non aspettano che me, in ritardo sono già, non mi posso trattenere! Signor coniglio, aspetti! No, è tardi sai, io sono già in mezzo ai guai! Bello, sono già in mezzo ai guai, dice il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. E potrebbero essere in tanti gli italiani che si sono resi conto di essere in ritardo proprio in queste ultime ore. In ritardo per la presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi. La scadenza era ieri. Eh sì, è passata. Ora capiamo come si può fare, se si può rimediare. Ci aiuta un grande amico di Cuore Denari, Giovanni Parenti, del Sole 24 Ore. Giovanni, ciao! Buongiorno a te Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Allora, ricordo ancora il nostro numero verde, 800 24 00 24. Avete scelto di compilare la dichiarazione dei redditi, il 730, in particolare nella versione precompilata? Avete chiuso tutta la procedura per bene entro la giornata di ieri? Insomma, siete quasi perfetti? Oppure vi siete rivolti a un CAF o ancora a un intermediario? Allora, voi raccontateci com'è andata e diteci anche se vi siete dimenticati di questo o di altre scadenze fiscali estive o se vi siete resi conto di aver dimenticato qualche dettaglio, qualche elemento importante che avreste invece dovuto inserire. Giovanni, allora partiamo proprio dal modello 730 perché ieri è scaduto il termine per presentarlo. Ci aiuti a ricordare chi era interessato da questa scadenza? Assolutamente sì. Cioè, che cosa è successo ieri? Ieri era la scadenza in cui i contribuenti che volevano inviare il 730 precompilato direttamente all'agenzia potevano appunto farlo attraverso la piattaforma dedicata a cui si accede attraverso vari modi, le password di fisco online, il PIN dispositivo dell'INPS, noi PA per i soggetti soggetti della pubblica amministrazione, poi c'è lo SPID che insomma garantisce un accesso a più piattaforme della pubblica amministrazione. Appunto questa era la scadenza per chi faceva il fai da te. Allo stesso tempo anche i CAF, i professionisti abilitati, potevano sfruttare la scadenza di ieri, ma solo una condizione, cioè dovevano aver trasmesso l'80% delle dichiarazioni 730 a loro carico entro lo scorso 7 luglio. Quindi insomma da quello che sappiamo sicuramente si è superato il numero di 730 precompilati inviati direttamente dai contribuenti rispetto all'anno scorso. Penso all'anno scorso erano 1.900. A venerdì, sabato scorso, abbiamo scritto sul 24 di domenica, sì. Già eravamo intorno ai 2,2-2,3 milioni, quindi insomma la crescita del 730 in qualche modo è progressiva nel corso del 730 precompilato, è progressiva nel corso degli anni. Allora Giovanni, Allora Giovanni, pensiamo proprio a chi ha scelto di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello precompilato, quindi procedura online, sei d'accordo? Magari tu dici sono cresciuti, ma evidentemente perché qualcuno si è aggiunto e quindi magari per qualcuno era la prima volta, magari ha fatto un po' di confusione, magari ha fatto le cose all'ultimo momento. Allora aiutami bene, di che cosa bisogna accertarci per verificare di aver fatto tutto correttamente? C'è una notifica, ci arriva una ricevuta che possiamo conservare, che magari attesta che tutto è andato filo, cioè, per filo e per segno, tutto a posto? Nicoletta, me lo chiedi, ma tu sei preparatissima, assolutamente. No, perché Marco mi ha fatto studiare, sai, io sono molto agitata invece, perché Marco mi dà poi il voto e io tendo, cioè so che non sono perfetta, ma insomma cerco di fare le cose per bene. Di perfezionismo parleremo nella seconda parte della trasmissione, se vuoi ti invito. Grazie. Allora, Giovanni. No, assolutamente sì. Allora, l'attestazione in qualche modo che tutto è andato a buon fine, ci viene da una ricevuta che il sistema elabora alla fine dell'invio della trasmissione del modello 730 precompilato. Attraverso questa ricevuta sostanzialmente il sistema ci dice che l'invio è avvenuto, è andato tutto è andato liscio come doveva andare, oppure ci possono essere delle segnalazioni di eventuali anomalie, errori che sono stati commessi nella procedura. Ecco, volevo però rassicurare tutti quanti i contribuenti, sì. Nel senso che se ci fosse stato qualche problema, se si fossero accertati fuori tempo massimo che il 730 precompilato non è stato inviato, attenzione, perché abbiamo comunque una seconda opportunità, c'è sempre una seconda chance. Perché qual è la seconda opportunità che viene concessa? È la possibilità di presentare quello che fino all'anno scorso si chiamava modello unico, ma da quest'anno si chiama modello redditi. Ed è qui è bene fare una doppia precisazione. Perché qual è la differenza principale rispetto al 730? Il 730 dà un vantaggio enorme se si è a credito d'imposta, cioè se si è accorti che grazie alle detrazioni, alle deduzioni, si è pagato di più nel corso dell'anno, che il 730 riguarda sostanzialmente i dipendenti e i pensionati, allora c'è un credito, un rimborso che può essere erogato direttamente al sostituto d'imposta, che quindi il datore di lavoro o l'ente pensionistico, nel cedolino dello stipendio o in quello della pensione. Questo è il vantaggio immediato del 730, nel senso che garantisce un'erogazione quasi immediata, nel senso che chi l'ha presentato proprio ieri sicuramente non lo vedrà nella busta paga di luglio, magari lo vedrà in quella di agosto, però insomma è comunque un termine molto veloce, molto rapido. Sul modello redditi i termini sono un po' più lunghi e soprattutto poi il contribuente deve fare una scelta se tenersi quel credito che ha per eventualmente compensare altre imposte anche in futuro, oppure chiedergli al rimborso, però insomma non c'è una procedura così diretta, così veloce di erogazione. L'altro aspetto che bisogna sottolineare è che per il modello redditi c'è più tempo per poterlo presentare. Allora, il contribuente può scegliere anche in questo caso di fare il fai da te, perché la piattaforma che garantisce l'invio del 730 precompilato è anche predisposta per la compilazione e l'invio in autonomia del modello redditi. Quali sono i termini di invio? Attualmente la scadenza è fissata al 2 ottobre, perché il termine sarebbe il 30 settembre, ma scade, ma slitta di due giorni, in quanto il 30 settembre è sabato. C'è aria di proroga, anzi c'è un vento, più che aria, c'è un vento abbastanza sostenuto di proroga, nel senso che si sta lavorando, si sta definendo una scadenza che quest'anno dovrebbe essere un po' più lunga per l'invio del modello redditi di tutti, persone fisiche, quindi saremo noi contribuenti cittadini, ma anche quelli delle imprese e dei professionisti. La scadenza dovrebbe arrivare al prossimo 31 ottobre, quindi chi non l'ha si è accorto di non averlo inviato o chi si trova in una situazione, ad esempio, in cui si è dimenticato un reddito o ha indicato un ammontare di detrazioni e deduzioni troppo elevate, quindi cioè ha fatto un errore Però a suo favore, sì. Ecco, attenzione, questo è bene precisarlo, può inviare il modello redditi in autonomia, se magari ha già usato la piattaforma nel 730 precompilato o recandosi poi a un CAF o da un professionista abilitato. Diverso è il discorso in cui io l'ho già inviato il 7.30 precompilato, ma mi sono accorto che ho dimenticato, ad esempio, una ricevuta sostanziosa per le spese mediche, ho dimenticato di inserire le spese scolastiche per il figlio, le spese della palestra del figlio, cioè sono spese che comunque danno pesano, certo, più alta. Esatto. Che cosa succede in quel caso? Che ho fatto un 7.30 che in qualche modo dà un esito, un importo più sfavorevole rispetto a quello a cui avrei diritto. Niente paura, anche in questo caso si può rimediare con un modello 7.30 integrativo. In questo caso la scadenza è il 25 ottobre, sì, ma attenzione, non si può fare da soli, perché il 7.30 integrativo va assolutamente presentato con l'ausilio di un CAF o un professionista abilitato. In quel caso non si scappa, cioè se tu hai... Insomma, non è ammesso il canale web, diciamo non così. Non è ammesso il canale fai da te, in fai web da te. Fai da te. Okay. Esatto, questa è la differenza principale. Quindi cioè, si può ancora rimediare, ma ci sono delle regole ben precise. Giovanni, c'è Carla da Padova che ci ha chiamato all'800240024, ha bisogno di un consiglio da te. Carla, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Io ho un figlio di 21 anni con una serie di lavori precari. Per fortuna ad agosto finalmente verrà assunto, ma per quello che riguarda l'anno scorso io ho avuto le varie certificazioni uniche di tutti i lavori che ha fatto, tranne l'ultimo mese in cui ha lavorato per un mese a MediaWorld. Siamo andati più volte a chiedere, ho bisogno della certificazione unica, devo fare la dichiarazione dei redditi, gliela manderemo via mail, gliela manderemo, solleciteremo. Io che armi ho per poter avere questa benedetta certificazione unica? Allora, Giovanni. In questo caso in qualche modo va segnalata la questione, perché è un diritto del contribuente a avere la certificazione unica. Volevo solo capire se per caso la nostra ascoltatrice, sì, ha per caso visualizzato la precompilata del proprio figlio. Allora, magari, se io normalmente mi rivolgo al caso perché sono un po' imbranata. Brava, come me. Allora facciamo così. Giovanni Parenti a disposizione. La nostra amica ci scrive a Cuore Denari. Noi facciamo lavorare Giovanni, perché anche lui è un po', insomma, è molto gentile e anche perfezionista, e così risolviamo il caso, come spesso accade a Cuore Denari. Giovanni, ti saluto, ti abbraccio, buone feste. Buone vacanze, a chi in vacanza, buon lavoro a chi è in lavoro. Ciao. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Cuore e denari. Paura nella notte in Grecia, un sisma di magnitudo 6.7 colpisce l'isola di Kos. La costa... Paura sull'isola di Kos dopo la scossa di magnitudo 6.7, l'epicentro in mare tra Grecia e Turchia. Bene, tra le notizie di quest'estate 2017 ricorderemo purtroppo anche la terra che trema fra la Grecia e la Turchia. Ancora in questo weekend, proprio sabato 22, una scossa di magnitudo 4.4 seguita da una seconda che ha colpito le acque tra la turca Bodrum e l'isola greca di Kos. Poi ancora scosse di assestamento. Tutto questo dopo la prima forte scossa 6.7 gradi della scala Richter due notti prima, che aveva causato, lo ricordiamo, due morti e oltre 500 feriti. Abbiamo visto le immagini di residenti, di turisti che abbandonano le case, gli alberghi, si sono riversati nella piazza principale lontano dagli edifici, scene che noi ben conosciamo. E d'altronde sappiamo che la Grecia è una terra bellissima, sappiamo anche che è la meta prescelta per le vacanze da tantissimi turisti europei e non solo, da tantissimi italiani, molti pronti a partire proprio per la Grecia nelle prossime settimane. Allora qualcuno potrebbe aver cambiato idea, lo capiamo, perché naturalmente in vacanza è giusto essere liberi dai pensieri, dalle preoccupazioni, dall'altro però è anche giusto evitare che si creino eccessivi allarmismi. Allora per questo noi cerchiamo di fare chiarezza, abbiamo invitato un esperto del settore, Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi. Bentornato ai nostri microfoni, presidente. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Presidente, con lei, come anticipato, vogliamo un po' ricostruire la situazione a Kos e nei dintorni e quindi dare tutte le informazioni utili ai nostri ascoltatori per fare in modo che possano decidere in piena tranquillità e lucidità e serenità anche eventuali cambi di programma. Intanto, a chi ci sta ascoltando all'800 24 0024, vorrei chiedere se eravate in Grecia nei giorni scorsi, nella zona del sisma in particolare, oppure se avete in programma proprio di recarvi da quelle parti nelle prossime settimane, se avete cambiato idea magari dopo la notizia del sisma, oppure al contrario siete ancora decisi a godervi questi giorni di vacanza in un luogo che, diciamo, magnifico, da favola. Allora raccontateci e raccontatevi e diteci se qualcosa vi preoccupa. Sono naturalmente, potete come sempre mandarci anche WhatsApp al 349-238-6666. Presidente, allora immaginiamo che molti tour operator italiani siano attivi a Kos e che siate in continuo contatto con loro e con le autorità competenti. Quali sono, Presidente, le notizie che avete avuto immediatamente dopo il terremoto? I turisti partiti dal nostro paese come hanno vissuto l'emergenza e soprattutto qual è la situazione ora? Si è tranquillizzata? Buongiorno, come dicevo prima, sì, siamo noi Tour Operator, l'associazione Astoi che fa capo a Confindustria Viaggi, e in continuo contatto con le istituzioni greche. Siamo in continuo contatto con i nostri clienti e con i nostri rappresentanti che abbiamo sull'isola. No, tempo, no, mi, sì. Scusi, no, volevo dire che sì, no, mi è arrivato un messaggio proprio in questo momento, chiudo, sì. Perché siamo in tempo reale, costante, ecco. contatto con i nostri clienti. La situazione nell'isola, dagli ultimi dati e ricevuti da parte delle istituzioni, come dicevo prima, il concetto dell'amministrazione, ci dicono che l'isola è normale, tutto è ritornato normale, l'aeroporto è funzionante, le strutture ricettive non hanno subito danni perché sono state costruite con i nuovi concerti antisismici. È chiaro che quello che si è visto in televisione, un terremoto c'è stato, una scossa importante c'è stata, un panico, una paura, una tensione generalizzata c'è stata e di conseguenza questo è il dato di fatto. Ma di qui a pensare che possa o smettere o continuare, noi non abbiamo, tra virgolette, dati che ci possono dire come potrà svolgersi il futuro di questa magnitudo. Certo, mi scrivo subito un ascoltatore, leggo anch'io il messaggio, anche noi siamo in tempo reale, Presidente Filippetti, con i nostri ascoltatori. Il 15 parto per la Grecia, non andare per colpa del terremoto sarebbe una grandissima stupidaggine per un italiano, Presidente. Quindi, allora, ognuno reagisce come crede, come vuole, sì, sono contento, mi fa piacere, c'è gente... che purtroppo viene paralizzata dall'emotività del momento, perché pensare di andare in un territorio, in un luogo stupendo quale può essere la Grecia, cose particolari, chiaramente è un grande appeal. C'è qualcuno che invece, come dicevo prima, viene paralizzato e desidera non partire. Ma come cosa possiamo consigliare comunque a chi ci sta ascoltando? E il pensiero ce l'ha, perché è un pochino preoccupato, magari non parte direttamente lui, i figli, i ragazzi amano andare in Grecia. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che avevano prenotato un viaggio in quella zona? Bisogna avere più attenzione, come è meglio muoversi? Vuole dare delle così raccomandazioni, delle indicazioni da seguire? Beh, chiaramente il sito della Farnesina, del Viaggiare Sicuri e dell'Unità di Crisi è aggiornato in tempo reale su quelle che sono le situazioni e i problemi che si possono vivere al momento all'isola di Kos. Ogni turista che vive in questo momento a Kos e che sta finendo la propria vacanza desidera rientrare, può rientrare liberamente con qualsiasi volo messo a disposizione dai tour operator nel momento in cui questi ci sono e sono disponibili. Se qualcuno invece non è in grado o non vuole assolutamente aspettare la data di rientro che era prenotato, può farlo liberamente, come abbiamo sempre detto, perché anche l'unità di crisi della Farnesina dice che questo non è un evento così particolare dove bisogna evacuare e per cui possono intervenire ed interverranno delle forze, tra virgolette, dello Stato per cercare di evacuare. È stata una scossa di terremoto, un evento atmosferico importante, però di qui a pensare che, a seconda delle motività delle persone, tutti vogliono rientrare e nessuno possa o voglia più partire, come abbiamo sentito con l'altro ascoltatore, mi dispiacerebbe molto non partire. Certo, infatti lui parte. Ma Presidente, lasciando da parte la vicenda specifica di Kos, più in generale, in quali casi è possibile cambiare idea rispetto a una vacanza prenotata? Quali passi serve aver compiuto prima? Mettersi quindi nella condizione di, all'ultimo momento, cambiare idea? Magari è più facilitato chi ha sottoscritto un'assicurazione di viaggio? No, non ci sono assicurazioni che garantiscano per eventi naturali tipo appunto uragani, tsunami, eventi atmosferici particolari, terremoti o la nuvola, come quando vivemmo il problema della nuvola. E qui bisogna fare un distinguo: chi ha prenotato mezzo un'agenzia di viaggi, quindi con un operatore il quale mette insieme un pacchetto, c'è una normativa di legge, per verità non ancora molto chiara, e ci stiamo lavorando, e lo Stato sta lavorando nella commissione competente per cercare di definire le regole nuove. Chi compra un viaggio con un tour operator è garantito che può essere riprotetto o rimborsato. Non so se questo possa essere il caso oggi di questo terremoto che si è vissuto e fino a quanto questo potrà essere protratto. Per l'ultima sabato e domenica che avevamo dei clienti in partenza per COS, abbiamo dato loro la possibilità di andare chi voleva. L'80% ha preferito cambiare destinazione e il 10% ha detto: no, io ancora non so, sono timoroso, non mi posso muovere, non ho più voglia di muovermi. Abbiamo lasciato un bonus che possono usufruire nelle future vacanze o nei giorni successivi fino alla fine dell'anno, e ogni operatore comunque si è comportato di conseguenza. Qui il distinguo è che se qualcuno ha prenotato anche in un portale online un servizio singolo, in un carrello, intendo, un albergo e poi un aereo e poi un trasferimento, anche se la fattura e la carta strisciata è tutto con un pagamento unico, quello non è un pacchetto turistico e quindi il responsabile non è colui che ha venduto il prodotto. Gli unici responsabili nella filiera del turismo intermediato sono le agenzie viaggi e i tour operator nel momento in cui vendono un pacchetto. Avere la responsabilità cosa vuol dire? Riportare i clienti nel momento in cui succedono eventi particolari, rimborsare i clienti qualora questi lo chiedono o non desiderassero cambiare destinazione in base alle disponibilità che ci sono, però non si capisce, e forse spesso i clienti potenziali nostri non sanno qual è la differenza e la responsabilità che si prendono comperando da soli. Poi il mondo è libero, e ognuno, certo, è libero di comprare quello, guardi, che vuole, per carità, ma noi vediamo più un'assistenza che non un concetto di vacanza. Allora andiamo subito da Davide, chiudiamo con lui questa prima parte di Cuore Denari. Ci chiama da Pesaro Urbino. Buongiorno Davide, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, lei parte Davide. Io parto il 4, io e mia moglie andiamo a Santorini. Bellissima. Siamo informati, è distante circa 350-400 km dal sisma, ma non c'è, insomma, non c'è nessun problema là, e quindi, però chiaramente ci siamo informati. Dico questo perché quando è successo il terremoto a Amatrice, io abito in Romagna, quindi in Riviera Romagnola, sì, molti non sono venuti da noi perché pensavano che le strutture erano danneggiate, mentre invece qua non c'era niente, e quindi proprio per non fare allarmismi. Bravo, così ricordiamo anche questo, non facciamo falsi allarmismi. Davide, buonissime vacanze. Grazie a lei e a sua moglie, Presidente Filippetti, grazie per essere stato con noi. No, desideravo semplicemente, con questi eccessivi allarmismi, purtroppo chi vende comunicazione o chi fa comunicazione deve cercare di creare l'allarmismo per cercare di attennagliare l'attenzione. A volte si esagera, creando noi cerchiamo di fare, bravo, noi cerchiamo di fare chiarezza, non ci piacciono le bufale. Grazie per averci aiutato, Presidente, noi ci sentiamo presto, adesso andiamo a sentire il GR. Poi torniamo di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Cuore e denari. Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono. Aristotele. Se invece per voi Aristotele si sbagliava e vi sentite e pensate di essere delle persone perfette, fatevi conoscere da noi. 800 24 00 24, dico da noi perché lo studio, in studio sono arrivate le mie due ospiti. Saluto la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta e psicologa, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E saluto un'amica di Cuore Denari, Maria Giovanna Luini, medico e scrittrice. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno. Allora, perfezionismo. Tendiamo alla perfezione, vogliamo essere perfetti, ci impegniamo a esserlo con grande fatica. Poi ci scontriamo con i nostri risultati, con le nostre insoddisfazioni. Oppure cerchiamo, diciamo, ma la vita ci offre quello che può offrirci, lasciamola andare, non si può essere sempre perfetti. E quindi tendiamo a così accontentarci, e a volte questo atteggiamento ci porta a non impegnarci nel fare per bene le cose. Difficile il tema di oggi, ma io so che, dato che voi siete gli ascoltatori perfetti, interverrete all'800 24 00 24. Intanto, dottoressa Torti, lei è una perfezionista? Direi di sì, forse me lo dicono tutti, io mi sento in parte, perché vedremo oggi che il perfezionismo è un concetto abbastanza complesso, ha diverse sfumature al suo interno, non si può parlare di perfezionismo come a senso unico, insomma. Quindi io potrei dire sì, perfezionista soprattutto in alcuni ambiti, in altri no. Quindi vediamo poi la differenza fra perfezionismo sano e buono e quello invece cattivo. Abbiamo pensato di così proporvi un tema sul perfezionismo alla vigilia delle vacanze, perché quando arrivano le vacanze, per tutta una serie di ragioni, noi vogliamo sfoggiare la migliore forma fisica, la famosa prova costume. Vogliamo arrivare ad essere subito simpatici, socievoli, fare buone amicizie, dimostrare alla cerchia di amici che conosciamo da tempo e che incontriamo puntualmente nella località di villeggiatura che frequentiamo, di aver passato un anno perfetto, Allo stesso modo, quando facciamo nuove amicizie, che cosa vogliamo fare? Fare belle impressioni. E chi fa belle impressioni? La persona che si sente perfetta o vuole essere perfetta. Allora, mi è sembrato che questo tema così particolare ci aiutasse un pochino a riflettere, a prendere le misure. E parliamo della perfezione che vogliamo per noi, intendo sulla forma fisica, ma anche sul nostro modo di affrontare le cose e sui risultati che abbiamo ottenuto. Perché, diciamo anche la verità, arrivano le vacanze, si chiude un anno e il vero inizio d'anno sarà la ripresa dell'attività lavorativa. Il vero inizio d'anno spesso non è il primo di gennaio, dopo che abbiamo fatto i propositi per il nuovo anno, ma proprio la ripresa. E lì allora ci misuriamo, facciamo una sorta di bilancio. Per tutte queste ragioni io vi invito a parlare con noi. Ma, dottoressa Torti, cerchiamo di capire se siamo dei perfezionisti. Lei ha preparato un test. Se lei ce lo propone, ci propone una batteria di domande, noi proviamo a rispondere e a darci magari un punteggio, per poi scoprire che pensiamo magari di essere perfezionisti e non lo siamo, o, come spesso accade, lo siamo in alcuni ambiti della nostra vita, ma in altri lasciamo correre, siamo un po' cialtroni. Che va bene anche così. Dottoressa. Direi che i punti chiave per il perfezionismo sono cinque domande, quindi faremo. Partiamo con la prima, domandiamoci se non siamo mai contenti di ciò che abbiamo raggiunto. Prima domanda, sono sempre insoddisfatto? Oppure mi faccio i complimenti da solo, mi do una pacca sulle spalle, dico ok, è andata bene questa volta, sono in grado di fare questo, oppure sono sempre insoddisfatto? Prima domanda. Seconda domanda. Ti sembra di essere sempre in ritardo e di essere sopraffatto dalle cose da fare, quindi di non avere mai tempo a sufficienza, quando si dice appunto dovrei avere 48 ore, no? Non 24, per fare tutte le cose che devo fare. Quindi il tempo come fattore cruciale. Oppure, la terza domanda, ti capita di procrastinare le cose da fare per paura di non farle abbastanza bene al 100%, direi io? Allora, a questo proposito, sapete che l'indicazione di stare sull'attualità, abbiamo proprio oggi, ho letto una pagina di Repubblica Stili di Vita, si è concluso a Chicago il congresso degli scienziati che studiano i procrastinatori, il vizio di rimandare a domani, che ha a che fare proprio, guarda, c'è un bellissimo articolo, una bellissima intervista a Joseph Ferrari, che insegna psicologia all'Università di Chicago, e lega proprio i procrastinatori a chi teme di essere giudicato e quindi ai perfezionisti, come a dire che siamo proprio in linea d'attualità. L'ho interrotta perché rimando anche i nostri ascoltatori, c'è anche questo aspetto molto interessante. Ok, siamo alla quarta domanda. Allora, quando è stata l'ultima volta che hai corso un rischio? Questo è un altro elemento fondamentale, proprio perché il perfezionista tende a controllare tutto. Se io non corro mai rischi, può essere che ci sia una linea di perfezionismo dentro di me. Se invece corro rischi in vari settori della vita, non sempre per forza rischi grandissimi, magari anche piccolini, però imparo a gestirli, forse allora siamo su un'altra strada. Quindi il rischio come altro fattore cruciale. L'ultima domanda. Chiedi spesso rassicurazione agli altri su come sei andato, su come stai, su come appari, su quello che hai detto? Beh, certo che è andata giù dura, dottoressa Torti. Scavano questi psicoterapeuti, ti mettono uno scavino nel cuore e nella testa e lì iniziano. Giovanna, hai risposto tu? Sì, sì, solo l'ultima ha un sì, le altre no. Non sono perfezionista, pretendo molto da me stessa, ma non sono perfezionista. Però chiedo il parere degli altri, sia come medico, sia come scrittore, sia come Giovanna. E questo mi pare importante, perché la visione degli altri, secondo me, aiuta molto. Allora, intanto che i nostri ascoltatori, i nostri amici provano a rispondere a queste domande, e ve le ripeto velocemente: non sei mai contento di ciò che hai raggiunto? Ti sembra di essere sempre in ritardo e di essere sopraffatto dalle cose da fare? Ti capita di procrastinare le cose per paura di non farle bene al 100%? Quando è stata l'ultima volta che hai corso un rischio? Chiedi spesso rassicurazione agli altri. Io chiederei invece alla dottoressa Torti di tratteggiarci un po' il perfezionista. Facciamo un esempio: chi è uomo, donna? C'è un'età particolare della vita? O si nasce o si diventa con il tempo? In che ambiente vive? Ma allora, l'identikit non è un identikit riferito al genere, quindi non è certo. Un maschio e una femmina, sicuramente possono essere entrambi i sessi. E il fattore cruciale è che può svilupparsi sicuramente in un ambiente in cui ci sono genitori perfezionisti, questo sì, o comunque figure di riferimento che comunicano con le critiche, quindi sottolineano sempre le cose che non vanno bene, l'aspetto da migliorare, quindi che spingono in qualche modo la perfezione. E questo è l'aspetto un po' più, diciamo così, di apprendimento familiare, ma sicuramente c'è una base anche genetica, quindi biologica, del perfezionismo. È stata vista la correlazione tra perfezionismo e disturbi patologici tipo l'ansia, l'ansia prestazionale, quindi l'ansia da prestazione, come è logico immaginare, ma anche altri disturbi che riguardano per esempio disturbi alimentari, come è logico pensare anche qui, o la depressione, questo come fattore secondario del perfezionismo. Una persona perfetta non se la dà mai buona, nel senso che è sempre critico verso se stesso e quindi alla fine si demoralizza, e questa demoralizzazione può portare anche a questo fattore che è la depressione, un andamento dell'umore molto molto basso. Quindi c'è sicuramente un aspetto di genetica, di familiarità e di apprendimento sociale. Il fattore buono, come dire, che per esempio se ho dei genitori che sono perfezionisti ma si limitano a fare critiche in maniera molto poco, quindi non fanno critiche così eccessivamente, il bambino che vive queste cose, il ragazzo che vive in famiglia, può anche non sviluppare un perfezionismo cattivo, diciamo così. Mm-hmm. Può semplicemente apprendere uno stile, ma non trasformarlo in un dato patologico. Quindi mi sembra, dottoressa Torti, che come succede per l'ansia, così per il perfezionismo, c'è l'ansia buona e l'ansia cattiva, c'è il perfezionismo buono e c'è il perfezionismo cattivo. Assolutamente sì. Corretto? Sì, sì, sì, anzi, diciamo che il perfezionismo ha sempre due tipi di conseguenze. Le conseguenze positive ci sono, e come dicevi tu all'inizio, Nicoletta, il perfezionista in qualche modo si spinge molto e si impegna molto, quindi il raggiungimento degli obiettivi è uno dei fattori positivi principali che si osservano di più e che sono anche rinforzati dalla società. Quindi se un ragazzo prende 30 lode all'università, 30 lode è il perfetto, no? L'esame perfetto, allora verrà lodato e rinforzato sicuramente. Altri aspetti positivi ci sono, rende la vita più semplice comunque in qualche modo perché dà più struttura e controllo. Ricordiamo che il perfezionista è quello che non corre il rischio, quindi in qualche modo programma tutto, pianifica. Tiene tutto sotto controllo, come l'ansioso. Esatto, evita quindi fallimenti. Se io preparo tutto e pianifico tutto, evito in qualche modo di fallire. È vero, gioco in difesa, come l'ansioso, quindi non mi butto. E cosa succede se non mi butto? Non colgo magari delle occasioni della vita, e questo è l'aspetto magari negativo, che invece potrei cogliere anche con successo. Certo, rischiando di più, ma... Ci sono persone che vogliono essere perfette, ma c'è chi la perfezione la cerca negli altri. E una figura che esigiamo, vogliamo sia perfetta è il nostro Tante. Ma con Maria Giovanna vorrei parlare, essendo lei medico e avendo una stretta relazione con i pazienti, della figura del medico. Sì. Al nostro medico curante e al medico anche che interpelliamo per una visita perere, noi vogliamo che sia perfetto nell'elaborazione della diagnosi e nella terapia, nel darci la terapia. E che sia perfetta anche la relazione che lui instaura con noi, perché siamo noi che abbiamo bisogno e quindi noi esigiamo che sia il medico a venirci incontro e non noi a andare incontro al medico. Maria Giovanna. È vero, al medico chiediamo che sia come noi lo vogliamo, e quindi c'è il vizio di base, perché essendo noi tutti diversi il medico dovrebbe essere perfetto per noi. Devo dire che per fortuna non esiste il medico perfetto, anche se esistono medici che ritengono di essere perfetti, questo lo dico facendo parte della categoria, quindi credo di poterlo dire. Non esiste il paziente perfetto, perché l'aspettativa è reciproca. Anche il medico spesso spera di avere il paziente perfetto, e il paziente perfetto è diverso per ogni medico. Quindi la perfezione non è dei medici, io dico per fortuna, perché avrei molta paura di mettermi in relazione da paziente con un medico che, tra virgolette, è, o meglio, si sente perfetto. Non esiste il paziente perfetto, così come non esiste, lo pensavo prima ascoltando, l'uomo perfetto, ma neanche l'amico il commercialista. 800 24 00 24, raccontateci le vostre storie. Cinzia ci chiama da Pavia, e poi Nino dalla provincia di Catania, e poi parleremo anche di atleti. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Parlando del tema della perfezione, vorrei dire che la perfezione nasce comunque dentro di te, nel senso che una persona, anche se ha avuto in famiglia, come ad esempio mio papà, che mi ha insegnato a essere abbastanza perfetta, poi uno impara e diventa sempre perfetta. E il fatto di essere perfetta ti implica prima di tutto a fare le cose in metà tempo, a catalogare bene, a mettere nelle scatole le cose giuste, ad aprire l'armadio e trovare tutto in ordine. E ti implica metà tempo di lavoro, perché se tu lasci in giro tutto, chiaramente dopo c'è un disastro. Ma anche penso il fatto di avere l'ordine e la perfezione, vivi anche più serenamente, respiri. Se invece hai un disastro intorno, secondo me non respiri. Questo non solo per quanto riguarda la casa, il mettere a posto gli armadi, la cucina e così, ma anche per quanto riguarda la contabilità, il fatto di mettere quindi a posto ci sono delle situazioni, delle condizioni, degli ambiti in cui la precisione, la perfezione contano. E potrebbero semplificare la vita. Una battuta delle mie due amiche? Rapidamente, io ho avuto in giovane età la diagnosi di binge eating disorder, è un disturbo alimentare grave. E ero molto perfezionista, tra le altre cose, bravissima in tutto, eccetera, eccetera. La psicoterapia mi ha guarito togliendomi il perfezionismo e ho raggiunto risultati nella vita molto belli, ma non sono più perfezionista. Ottimo, direi. Grazie Giovanna per aver condiviso con noi questa esperienza che può aiutare molti dei nostri ascoltatori, perché quando uno apre il cuore, qualcuno, qualche cosa esce e la persona lo raccoglie e questo seme fiorisce. Beh, io direi che Cinzia ha ragione, soprattutto perché è un tratto del temperamento, sicuramente, quindi non c'è biologia che tenga, non c'è familiarità o apprendimento familiare, in realtà deve nascere dentro di noi, ecco perché gli studi sui gemelli ci dicono, quindi gemelli nati nella stessa famiglia, con genitori uguali, alla fine possono essere diversissimi. Ok, quindi questo è vero. D'altro canto, l'ordine non sempre è sinonimo di perfezionismo, nel senso che l'ordine può essere la perseveranza, la disciplina, soprattutto direi la perseveranza nell'andare avanti, nel portare avanti delle regole. Il perfezionismo, come dicevamo, ha un carattere sia negativo che positivo, appunto perfezionismo buono secondo me va di pari passo con un ordine funzionale, un dispendio di energie e di tempo proporzionato nel mettere ordine, per cui è vero quello che dice Cinzia, c'è anche quell'aspetto positivo, certo. Struttura e pianifica. Ma la domanda è: in che cosa vi sentite perfetti? Perché ci sarà una situazione, un momento della vostra vita, una condizione, una cosa che fate molto bene, dite: io non dico perfetta, ma quasi. 800 24 00 24, siete degli ascoltatori perfetti, ad esempio. Nino, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Catania. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Io condivido molto quello che diceva poco fa il vostro ospite a proposito del perfezionismo buono e quello cattivo. Quello che penso che effettivamente bisogna prefiggersi degli obiettivi, e nella mia vita mi è stato molto utile quello che mi ha insegnato un insegnante di tecnica. Il primo giorno che ci siamo incontrati ha messo il libro sul tavolo dicendoci a tutti noi, gli alunni, ragazzi, noi ci prefiggiamo di fare tutto il libro perché già sappiamo che noi non ci riusciremo. Se noi ci prefiggiamo di farne tre quarti, ne faremmo di meno. Quindi prefiggersi un obiettivo credo che sia l'ideale per poter ottenere dei risultati soddisfacenti. Naturalmente è soggettivo, ognuno cerca di prefiggersi l'obiettivo che pensa di poter raggiungere. Nino, alla domanda del nostro test, anzi del test che ha elaborato per noi la dottoressa Torti, non sei mai contento di ciò che hai raggiunto? La prima domanda. Lei quando fa qualche cosa è contento oppure trova sempre il pelo nell'uovo? Sono contento e vedo sempre anche quella parte che magari probabilmente comunque nel mio lavoro stabilisco già prima, perché faccio un lavoro particolare, io sistemo le ammaccature senza danneggiare la vernice, quello che si chiama volgarmente levabolle della grandine, e quindi naturalmente mi prefiggo, cioè concedo sempre, arrivo a un compromesso concedendo un poco di studio ogni volta che si fa una ammaccatura, senza andare oltre, quindi questo mi ha permesso di crescere nel tempo professionalmente. Bravo Nino, grazie per essere stato con noi. Allora, io vorrei parlare anche di una categoria di persone che cercano, si impegnano a essere il migliore della loro categoria. Gli aiuta quello che possiamo chiamare senso di competizione. Voglio parlare degli atleti. Noi li vediamo, noi che atleti non siamo, li vediamo come perfetti, ma saranno davvero perfetti? In linea con noi è tornato a trovarci Giovanni Gabrielli, mental coach di Atleti Stellati. Ciao Giovanni. Ciao Nicoletta, complimenti per come sei oggi molto elegante e... Mi stai vedendo su WhatsApp? Sì. Ah, bene, vedendo. Allora tolgo lo sciallino perché avevo... Qua sì, io ho detto a Laura... Ecco, no, perché ho detto a Laura, vai, Laura, sbrigniamo lo studio, ma allora se mi vedete, perché me l'ero messa un po' per essere perfetta per le mie amiche, grazie. E tu sei andato di complimenti perché tu sai che io sono so che non sono assolutamente perfetta, anzi, e che quindi ho bisogno di rassicurazioni. Grazie. Certo. Quindi è stato tutto, era praticamente una terapia la tua, non è che è uscito dal cuore. No, gratuita. Ah, vabbè. Allora, parliamo di atleti. Sì, senti, io quando parlo di perfezionismo sugli atleti, faccio sempre questo parallelo. La perfezione è come l'orizzonte, non lo raggiungi mai. l'orizzonte lo guardiamo, possiamo avvicinarci, ma non lo raggiungiamo mai perché non ha un traguardo. Quindi certo. Io non cerco degli atleti perfezionisti, ma cerco degli atleti che cercano di avvicinarsi alla prestazione. Dipende molto anche poi da che tipo di sport, ad esempio nel nuoto sincronizzato, nel bodybuilding, nel pattinaggio artistico, ad esempio nella danza classica, dove comunque la tua esecuzione viene paragonata a degli standard che poi ti danno dei punteggi, allora lì c'è questa ricerca del gesto, della pulizia del gesto, eccetera, che può essere qualcosa legato al perfezionismo. In tutti gli altri sport di risultato, essere perfetti è un limite. Ho gradito molto i 5 punti della dottoressa Torti, perché danno proprio l'idea di un atleta che non ottiene risultati. L'atleta che cerca la perfezione è quello che rifiuta il fallimento. Rifiutare il fallimento limita il miglioramento. È un atleta che ha paura di sbagliare e quindi non corre rischi. E adesso molto spesso le gare si vincono prendendosi dei rischi e quindi accettando di sbagliare. Sono atleti che rifiutano le emozioni negative e le sensazioni negative e non si accettano, non si è mai abbastanza. E molto spesso questi atleti che cercano la perfezione vanno in overtraining, cioè non smettono mai di allenarsi perché cercano sempre questa perfezione. C'è una bellissima definizione riguardo alla perfezione di Claude Monet, che dice: ho voluto la perfezione e ho rovinato quello che andava bene. E questo è il punto, noi dobbiamo imparare a sapere dire basta, a fermarci, non a cercare sempre di andare oltre, perché in questo modo andiamo in overtraining, buttiamo via un mucchio di energia e andiamo magari a lavorare sull'efficienza e non sull'efficacia. Noi nello sport parliamo di ottimalismo. Allora, tu hai citato, Giovanni, tu hai citato Monet, io ti cito invece Bruna, un'amica di Cuore Denari, che ha mandato un WhatsApp e ci ha scritto: per me è sempre stato utile pensare che l'ottimo è nemico del bene, altrimenti ci sarebbero state cose che non sarei mai riuscita a finire. Buona vita, grazie, buona vita anche a Bruna. Giovanni, ecco, perfetta, potrebbe essere una... È in linea con il mental coach, Giovanni, noi. Sì, assolutamente sì. Ma noi dobbiamo abbandonare nello sport il concetto di perfezionismo e accettarsi e accettare ogni momento che ci arriva, leggere il contesto e adeguarci a questo contesto. Io dico sempre: è un vestito adatto nel qui ed ora, quindi ognuno di noi dobbiamo imparare a fare questo. Se andiamo, ci spostiamo dal perfettismo all'ottimalismo, che è la ricerca dell'efficacia, allora siamo motivati alla realizzazione, siamo resilienti, perché siamo resilienti, abbiamo la capacità di adeguarci a quello che l'esterno ci offre. E abbiamo un'altra cosa che distingue molto spesso gli atleti top dagli altri: la cura del dettaglio, ma non la cura del dettaglio. Bravo, ma hai offerto uno spunto che potrebbe essere per le vacanze o da... Ecco, curiamo, non cerchiamo di essere perfezionisti a tutti i costi, ma proviamo a curare il dettaglio. Ringrazio Giovanni Gabrielli, perché do la linea ai mercati, che non so se saranno perfetti, ma andiamo e poi ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Tatiana Torti, con la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico scrittore, con le vostre storie, le vostre perfezioni e le vostre imperfezioni. 800 24 0024, questo è il numero perfetto che dovete fare per parlare con noi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Una vita spesa a fare sbagli non è solo più onorevole, ma è anche più utile rispetto a una vita trascorsa facendo niente. George Bernard Shaw, scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese. Beh, lui era quasi perfetto, direi. Quante ne faceva, eh? 800 24 00 24, parliamo di perfezionismo, del piacere o dell'obbligo che avvertiamo dentro di noi, di quella spinta che ci vuole perfetti ad ogni costo. Per certi versi è una chance, in altri contesti può diventare una sorta di gabbia. E quindi parliamo di perfezionismo buono, di perfezionismo cattivo. Cerchiamo anche di capire se intorno a noi ci sono persone che noi riteniamo perfette e in che modo ci relazioniamo con loro. Perché Giovanna, ci sono tante persone intorno a noi che ci mandano messaggi che noi intercettiamo, interpretiamo come, ecco, io so come va la faccenda, io so che sono perfetta. Ma è vero, in effetti esistono persone che possono essere modelli in varie fasi della vita e sono lontanissime dall'essere perfette di solito. Invece ci sono persone che tendono a farci sentire sempre meno, no? Noi siamo indietro, siamo meno capaci. In realtà stavo riflettendo adesso, se io fossi perfezionista non consegnerei mai un libro perché vorrei sempre rivederlo e soprattutto non prenderei decisioni sui pazienti, perché ogni persona è diversa. Quando devi prendere una decisione e la vita del paziente dipende da te, se ritieni di essere perfetto, cioè se sei perfezionista, non decidi niente. E qui mi collego, perché proprio il perfezionismo, come dire, influenza negativamente la capacità decisionale. Un aspetto cruciale è quello del non saper scegliere quale priorità dare alle cose. Allora, se il perfezionismo buono è quello che mi dà piacere, quindi conseguenza principale è il piacere nel fare le cose che faccio, e non mi influenza queste due capacità, che sono prendere decisioni, come diceva Giovanna, e darsi delle priorità, allora va bene. Bene. Ma se mi blocca in queste due cose, non va più bene. È proprio questo il problema. E ancora una volta è come la paura. Un po' di paura ti salva la vita, ma se la paura ti blocca la vita e quindi eviti tutte le cose che ti fanno paura, lì fobia. Inizia il problema. Massimo da Genova, forse è un problema? Dunque, io, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dare il punto di vista di una persona non perfetta che vive con una persona perfetta. Io ho una moglie con la quale vivo da 25 anni ed è una persona perfetta, lei si considera tale, guarda caso ha scelto una professione, soprattutto una specialità, lei è un anestesista, per cui ha bisogno del controllo su tutto, sempre con bassissimi margini di errore. Allora io a questo punto dico, chi vive accanto ad una persona così ha una serie di problemi, ha anche dei vantaggi, perché io usufruisco di molti vantaggi del vivere con una persona perfetta, però non sei mai all'altezza. Certo. È questo. Insomma, guardi, questo mio marito in questo è una persona molto felice, perché io sono una pasticciona e quindi se vuole venire un po' anche lei a vivere da noi, così si rasserena. Giovanna. Farei una piccola difesa di categoria, non sono anestesista ma sono chirurgo, ho sposato un chirurgo soprattutto. Sì. A volte devi manifestare una certa sicurezza che è molto lontana dal sentirti perfetto, ma devi mostrarti così perché devi reggere anche situazioni un po' pesanti. Poi farlo a casa è un'altra questione. Ecco, infatti si dice dei chirurghi, la differenza tra chirurgo e Dio è che Dio non pensa di essere un chirurgo. Esattamente. Ma questa è un'altra storia. Tatiana, dottoressa Torti, allora sì. Vivere accanto ad una persona che noi percepiamo come perfetta, senza togliere nulla alla moglie dell'amico di Genova, ovviamente. Ma è un bel macigno, eh? Beh sì, conteniamo conto che è un bel macigno sia per chi è perfetto o comunque si pensa tale, sia per chi vive vicino a una persona perfetta, perché gli standard sono molto elevati. Altra caratteristica chiave è che gli standard continuano a modificarsi, cioè raggiunto una cosa le voglio sempre una nuova, migliore, quindi è difficile veramente per una persona che vive a fianco stare a questo passo, che è un passo molto affaticato, molto, molto affannoso. Quindi di fatto sì, la cosa che secondo me dovremmo tenere in considerazione è che se la moglie, per esempio di Massimo, è una perfetta ma limita le sue critiche e quindi impara a gestire questo aspetto del sottolineare le cose che non vanno, allora può essere anche, appunto, Massimo può trarne tutti i vantaggi, perché ci sono anche tanti vantaggi, no? Abbiamo parlato di quanto siano importanti i primi anni di vita e soprattutto le relazioni con i genitori. Genitori che pretendono, che sono esigenti, che ti correggono, che in qualche modo non permettono alla tua autostima di crescere e di alimentarsi. Un'ascoltatrice, Manu, ci chiede consiglio per la sua bimbetta, 6 anni, tende ad essere perfettina. Ecco, di solito è questo perfettina. Quando ti dicono ma tu vuoi essere un po' perfettina, vuol dire è già un giudizio negativo. Nonostante la mamma le dica che le vuole bene, così com'è, la bambina si intestardisce, si arrabbia se non riesce a fare quello che vuole al meglio. La mamma ci scrive che ha cominciato con dei piccoli tic e allora per evitare che la situazione si complichi chiede un consiglio a lei, dottoressa Torti. Quindi andiamo ai bambini. Allora, la bambina in questo caso è piccola, ha 6 anni, quindi ha appena incominciato ad affacciarsi al mondo della scuola, per esempio, quindi incomincia in qualche modo a mettere in atto una serie di comportamenti per controllare le paure. Questo poi è il problema. È vero anche che una bambina così piccola, e proprio perché è piccola, forse non rappresenta ancora un problema. Quindi da una parte direi di lasciare andare, sicuramente cercare di capire qual è lo standard che la bambina si è imposta e quali sono le paure, che rischio corre nello sbagliare, che cosa succede se non fa bene una cosa, non la fa come desidera lei al 100%. Aiutarla a esprimere questa emozione, che è molto difficile riconoscere in una bambina piccola, però ecco, chiedendolo con calma e con una frequenza giusta, proporzionata, secondo me può riuscire anche a esprimersi in questo modo. Allora, la perfezione non è di questo mondo, ci scrive Elisabetta. Anche la natura qualche volta sbaglia e poi ammazza la creatività. Allora, ritorna questo pensiero da parte di alcuni ascoltatori che mi portano a riassumere: chi è perfezionista è una persona poco creativa, perché deve rispondere talmente a tante regole, che alla fine a qualche cosa deve rinunciare, e forse potrebbe rinunciare al suo lato creativo. Ma è davvero così? Perché noi parliamo di perfezionismo, non stiamo dicendo che il perfezionismo è una cosa negativa, ci sono delle persone che riescono a lavorare per raggiungere dei risultati e impegnarsi a essere giustamente autocritici e quindi a lavorare sulla perfezione, magari in alcuni ambiti lavorativi, forma fisica, e su altri invece sono assolutamente più flessibili e quindi compensano. Ritornando alla relazione perfezionismo e creatività, ammazza la creatività il perfezionismo? Non è sempre così, non ci sono risposte nette in questo caso. Sicuramente se il perfezionismo, come diciamo prima, diventa cattivo, quindi è eccessivo, continua a spostare gli standard, non è mai abbastanza, non sono mai contento, è possibile che ammazzi la creatività, perché io non mi permetto di creare nulla di nuovo, ho troppa paura sostanzialmente di sbagliare. Però appunto il perfezionismo non è solo quello. Il perfezionismo può essere una persona molto precisa, ordinata in alcuni ambiti, quindi poi di fatto da quel tipo di attitudine riesce a sviluppare delle doti anche molto importanti. Si parla di eccellenza in questo caso, e allora la creatività forse può nascere. Il problema forse è che il perfezionista in questo caso ha un dispendio di energie così alto che è molto stanco. Potrebbe forse essere un po' meno stanco e arrivare all'eccellenza comunque. Come si può agire con una bimba di 7 anni che invece non fa per paura di sbagliare? Ci scrive un'ascoltatrice, il tema dei bambini che lei ha sottolineato ha acceso un po' la curiosità dei nostri ascoltatori e li ha spinti a raccontarci le storie, perché ci rendiamo conto di quanto le richieste che facciamo ai nostri bambini, ai nostri figli, i modelli che gioco forza imponiamo loro possano influenzarli e segnare la loro crescita. Però è corretto anche fare i genitori anche devono dare delle regole, dei modelli, devono spronare i bambini anche a fare, bisogna farlo nel modo giusto. E quello, io so una cosa, che il genitore una cosa è certa, sbaglia, essendo io genitore, quindi dottoressa Torti, è così, non c'è il genitore perfetto, meno male, no? Beh, allora, anche questa bambina è molto piccola, 7 anni, sicuramente non fare per paura di sbagliare sbagliare a un comportamento che può essere modificato piano piano. Prima di tutto attraverso il modello che i genitori danno, quindi ponetevi voi genitori dei piccoli eventi, dei piccoli compiti in cui potete sbagliare, ma delle cose molto semplici. Faccio un disegno che non è perfetto, che è un po' sbagliato, scrivo una frase sbagliata e mi lascio correggere, cioè dimostratevi come modello. In questo modo la bambina può interiorizzare questa cosa e rendersi conto che sbagliare si può e correggersi anche, e non è un dramma. E di conseguenza far fare invece a lei dei piccoli esperimenti comportamentali, si chiamano, sempre sulla falsa riga di prima, darle la possibilità proprio di scrivere delle cose sbagliate, fare un giochino, per esempio, scrivi una frase che la sai scrivere in maniera molto semplice e mettici dentro l'errore che il papà e la mamma lo trovano. Quindi cercare di allenarla a questa cosa, l'errore possibile, si può scovare, si può correggere anche insieme. C'è sempre una seconda chance, come ci diceva Giovanni Parente. Giovanna, adesso noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme. Vedo già che Giovanna ci vuole dire qualche cosa, ma c'è un momento della nostra giornata in cui vorremmo essere perfetti, o almeno che lo fosse qualcuno che vive accanto a noi, quando ci mettiamo ai fornelli, perché portare a tavola un piatto, non dico perfetto, ma che si avvicina nell'equilibrio dei gusti e dei sapori, beh, è una gioia, degli occhi e non solo. E quindi parleremo anche di questo, ma prima informazioni sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Cuore e denari. Ultima parte di Cuore e denari insieme alla dottoressa Tatiana Torti, che ha elaborato per noi, per gli ascoltatori di Cuore e denari, un test che ci permette di capire quanto e se siamo perfezionisti, e con Maria Giovanna Luini, medico e scrittrice. Giovanna, tu dicevi, il fatto che io scriva libri dimostra già che non sono una perfezionista, perché sennò non li darei mai alle sì, stampe. Però quando abbiamo parlato di creatività, poi ho avuto alla mente due volti, Ferzan Özpetek e Donato Carrisi, che sono due amici con i quali ho lavorato, sono due artisti e sono estremamente perfezionisti. Quindi non è che il perfezionismo sia in contrasto con una grande creatività, va gestito. Quindi mi sono venuti questi due volti e questo volevo condividere con voi. Ce ne sono anche mille altri, però... con precisione ho avuto loro. Bravo, e tu mi hai dato un assist, come dice sempre Deborah, perché io c'ho troppe S e lei sa che... Allora, dottoressa Torti, regole per gestire il perfezionismo, quel perfezionismo che diventa un po' intralciante, ecco. Allora, io direi che prima di tutto, appunto, dobbiamo imparare a riconoscere i traguardi raggiunti. Ogni tanto dirsi ho fatto bene, sono contento di quello che ho fatto. Questo è già sinonimo, no? di avere raggiunto un buon risultato. Magari non la perfezione, però un buon risultato. Di questo dobbiamo essere veramente contenti. Magari possiamo incominciare anche a comunicarlo a qualcuno, esprimere la gioia per questo, senza sentirci in colpa per non aver fatto ancora qualcosa. Il problema è questo, che il perfezionista non dice mai sono contento, perché si sente in colpa perché manca sempre un pezzo. Quel pezzo arriverà, quindi lasciamolo stare, nel futuro arriverà. Poi possiamo anche fare un'attività un po' più... molto, qua, sì. Molto. Arriverà. E se non arriva, peggio fa per niente. Lui. Esatto, vuol dire che non doveva arrivare. Ecco. Intanto aspetti che è arrivata Andrea Ribaldone. Andrea? Ciao! Tu stai lì, tu sei uno abbastanza perfezionista anche tu, e tra l'altro è chef del ristorante Arborina La Morra a Cuneo, ieri parlavamo di langhe e adesso sei in Puglia, ma senti anche tu i consigli della dottoressa Torti, quindi se non arriva arriverà, e se no pace. Ecco. È per forza così. Ecco, perché gli chef sono altro che, insomma, bisognerebbe studiare una categoria di persone un po' bizzarre. Dovremmo mandarle, qualcuna gliela manderei, così non, lei non visita Collettino perché è una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, ma sicuramente potrebbe fare del bene. Ecco, allora, secondo punto. Allora, secondo punto, visto che il perfezionista vero, quello abbastanza ferrato, è pieno di doverizzazioni, quindi poche attività piacevoli, a questo punto perché non crearsi invece una lista di attività piacevoli di svago, nelle quali non bisogna darsi anche lì un punteggio o arrivare alla perfezione. Esempio, vado a fare una camminata, non mi porto l'orologino con il contacalorie. Brava, che io ieri ho proprio parlato di contapassi. Abbiamo parlato di contapassi perché abbiamo detto, però non calorie, ho detto solo i passi perché bisogna un po' staccare il sedere dalla sedia, sì, dottoressa. Sì, è Totti. Vero, però ecco, anche lì siamo arrivati a un punto in cui tutto deve essere sotto controllo per forza. Noi sappiamo in realtà che fare una mezz'oretta di camminata al giorno è sano, no? Quindi va bene, ma se lo facciamo e senza se contare i passi. Se non la fai passi, 20 minuti o 40, se no la fai stesso, domani. Esatto, esatto. Posso quindi venire a vivere da lei? Certo, okay. Anzi, volentierissimo. Anch'io. Ok, l'altro punto che possiamo darci come regola è scriverci una lista delle priorità, proprio perché diciamo che il perfezionista mira a fare tutto perfetto, a questo standard un po' diffuso, diamoci delle priorità. E le priorità da chi vengono decise? Dal tempo a disposizione e dal contesto. Ok, quindi è importante, sono importanti questi due riferimenti. Ecco, se andate ad esempio, questo lo dico a noi donne che ogni tanto siamo prese dal raptus delle pulizie e dell'ordine, se andate in vacanza, nella casa in vacanza e c'è il mare o la montagna eccetera, non facciamoci prendere dal raptus di pulire tutto, fare i cose, i vetri e i cassetti, vero? Devo te non ti aprire viene casa, devo aprire cosa casa vuol dire? Usa apri la chiave, esatto. L'ha detto la dottoressa Torti, giusto? Sì, se dobbiamo andare ecco al mare e io ho appena pranzato e si è fatto tardi, vado comunque, lascio la cucina un po' in disordine, vado, nel senso altrimenti mi perdo il senso della vacanza. Ok, dai un tempo alle attività secondarie. Una volta fatta una scaletta di priorità e decido che alcune cose sono effettivamente secondarie, quindi meno importanti, decido di farle in un altro momento. Mi do dei cassetti temporali. Esempio, la persona perfetta è tentata a rispondere alle mail sempre, ogni minuto ne arriva una e ogni minuto devo rispondere. No, non è così. Se sto finendo un lavoro e voglio essere concentrato e attento a quello che faccio, deciderò che risponderò stasera o questo pomeriggio dalle 3 alle 4. Mi dedico un'attività ben circoscritta. Un altro punto è non farti distrarre dal tuo umore, nel senso che appunto la persona perfetta è sempre scontenta, quindi dice oddio non ce la faccio, non ce la farò, devo. No, rimaniamo concentrati e focalizzati sul compito, cerchiamo di mantenere l'attenzione al presente e rimaniamo disponibili. È un atteggiamento mentale proprio di apertura a quello che accade adesso. Io credo che su questo punto anche Andrea Ribaldoni possa dire la sua. Non diventiamo naturalmente chef della portata di Andrea, perché siete davvero pochi, ma Andrea, fare una cosa per le volte in cucina funziona così quanto, perché lavorare in una brigata in cucina che tende alla perfezione, perché poi arrivano le stelle Michelin e questo è un po' l'orizzonte a cui uno chef tende, di un certo livello naturalmente, ecco, ci si scontra con questa ansia di fare bene, ma nello stesso tempo ci si deve imporre una condotta per evitare di trascendere. Andrea. Guarda, avete detto delle cose molto interessanti, che la cucina è un po' il coacervo di tanti momenti, c'è una fase di preparazione e una fase di servizio, e quindi evitare la fase ossessiva del perfezionismo maniacale è davvero importante. E l'unico modo è quello di essere preparati prima, cioè quello che in gergo si dice la linea. Fare la linea per un cuoco è importantissimo. Una volta che la linea è giusta e pronta, il cuoco saprà che può fare il servizio in tranquillità, perché farsi prendere dal panico e dallo stress durante un servizio di cucina è la cosa peggiore che ci sia. E la squadra, hai detto anche qua una cosa giustissima, perché è la squadra che fa la differenza, non è un cuoco solo, gira a quel punto come un orologio perfetto, e gli ingranaggi sono tutti giusti e i piatti escono bene, questo è il segreto. Quindi non è rifare le cose più volte o farsi prendere dal panico e quindi essere davvero ossessivi, ma è preparare le cose prima, ragionarci, prepararle per bene prima. Quindi anche dalla brigata di una cucina, così come abbiamo fatto con gli atleti e con il rapporto con i medici, catturiamo delle idee, degli spunti che possiamo applicare nel nostro contesto. A volte aiuta riferirci a delle situazioni e degli ambienti che ci sembrano molto lontano, per scoprire quei paradigma che applicati alla nostra vita possono in qualche modo cambiarla. Dottoressa Torti. Beh, io qui sottolineerei un aspetto anche molto importante della squadra. Il perfezionista, visto che vuole tenere tutto sotto controllo, non delega mai. Ecco, quindi invece imparare allora, a farlo e è importante. Noi non abbiamo pensato di coinvolgere Andrea Ribaldone perché? Perché vogliamo preparare un piatto perfetto, ma un piatto che ci lasci del tempo, perché ci dobbiamo dedicare ad altre attività. Andrea. che cosa... direi che il piatto perfetto per l'estate, perché questa stagione è così calda, quindi un piatto da fare anche tutti i giorni volendo, tanto oggi sono in Puglia, quindi mi rifaccio a questo territorio meraviglioso, una pasta alla crudaiola. Sì. Pasta alla crudaiola, e usate una pasta fresca, qua in Puglia chiaramente sono le orecchiette, ma anche una pasta fresca non all'uovo, va benissimo. E poi pomodorini tagliati a metà, cacio ricotta si usa in Puglia, però potete usare anche, se volete, un pecorino, un cacio, insomma, basta che sia un formaggio da grattugia. Potrebbe anche andare bene un parmigiano bello stagionato, ecco, potrebbe essere giusto anche quello. E cuocete la pasta, saltate poi a freddo, questo è il passaggio molto importante, saltate a freddo con i pomodorini crudi e il cacio ricotta grattugiato, un po' di basilico. Il piccolo segreto per questa pasta, perché venga al meglio, è dargli della cremosità. Allora cosa fate? Con l'acqua di cottura della pasta andate a sciogliere leggermente un po' di cacio ricotta, aggiungete anche questa cremina che si forma alla fine, saltate, come dicevo prima, a freddo, potete anche conservarla in frigo e, perché no, portarvela al mare. È davvero semplice, ma piace a tutti. È perfetta, è un piatto di successo. Come sempre, come tutte le ricette che ci dà Andrea Ribaldone, chef del ristorante Arborina La Morra a Cuneo. Proprio ieri parlavamo di langhe, di trekking sulle langhe, ti verremo a trovare. Grazie ad Andrea Ribaldone. Grazie, grazie a tutti. Grazie. E un bacio alla Puglia, a tutti i ragazzi che sono in Puglia qua con me. Grazie. Grazie a Tatiana Torti, a Maria Giovanna Luini, a Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica, e noi ci sentiamo domani. Grazie, buona giornata.